Allora, eccoci, come promesso poc'anzi, siamo collegati telefonicamente con Francesco di Bussoleno. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, dunque, accusati, perquisiti, accusati di finalità terroristiche ed eversive, questi, diciamo, i capi di imputazione, i reati che vengono ascritti ai perquisiti dell'altro giorno. La risposta da parte del movimento Notav è stata immediata, si è svolta ieri, sicuramente proseguirà, insomma, ma c'è anche un certo sgomento, no? Perché qui l'asticella, diciamo, della provocazione viene toccata di giorno in giorno in maniera sempre più alta e quindi in un modo o nell'altro, insomma, un po' di preoccupazione c'è. Sì, beh, sicuramente è una cosa che non fa piacere, ricevere visite alle 6 di mattina di questo tipo con questo tipo di mandati e accuse, ecco, quindi penso che a nessuno faccia piacere una cosa del genere. La differenza ovviamente che magari ci può essere come atteggiamento, come anche risposta, è quella che comunque in un movimento reale dove la vita, la lotta si mescolano in un territorio comunque vivo e attivo, è sicuramente un po' diverso, c'è, cioè, magari un po' più di coraggio, determinazione, anche ragionamento su questo, quindi sicuramente non ci siamo spaventati, non ha fatto piacere, ma allo stesso tempo abbiamo guardato immediatamente avanti, siamo riusciti a fare delle analisi lucide della situazione, anche grazie al legal team che comunque immediatamente ha risposto, tantissimi avvocati che si sono messi in azione nonostante agosto, le ferie, tutto quanto, e subito dopo un paese intero che si è mobilitato, quindi le perquisizioni hanno toccato principalmente Bussoleno, che è un po' il centro del Comitato di Lotta Popolare e di tanti attivisti. Subito dopo il paese, appunto, si è riversato in strada, ha iniziato a chiedere cosa, insomma, cosa si poteva fare, di cosa c'era bisogno, comunque dare un minimo di solidarietà immediata, solidarietà attiva, poi non una pacca sulla spalla o poverino, cosa del genere, ma anzi tutto improntato sulla lotta e su cosa si poteva fare per delegittimare questo tipo di accuse, respingerlo al mittente e ovviamente creare altre situazioni di lotta che facciano vedere che questo tipo di azioni non solo non servono, ma ci pongono una situazione di determinazione ancora maggiore. Poi ieri sera, così spontanea, è andata questo presidio che poi è diventato una fiaccolata, un corteo per il paese, anche qua per dimostrare come tutta quanta la comunità si senta toccata quando si toccano i giovani, magari i ragazzi, quelli che hanno più tempo, più attivi, che si impegnano di più, quindi niente, direi una situazione ottima di risposta, anche dal punto di vista del dibattito interno in valle è un'ottima situazione, quindi tutti quanti hanno capito queste accuse sono di fatto ridicole, perché immediatamente leggendo il provvedimento si capiva che c'era qualcosa che non andava. I fatti contestati sarebbero del 10 luglio, il mandato con questo tipo di accuse è del 15, quindi in realtà abbiamo 5 giorni di cui 2 festivi in cui il PM avrebbe, diciamo, imbastito questa indagine con appunto arrivando un'indagine con il finale, appunto, questo articolo qua di associazione eversiva, quindi 3 giorni per dimostrare, insomma, per stabilire che c'è un tipo di reato relativo a un'associazione sovversiva, insomma, direi che già da solo il mandato parla chiaro. Sembra quasi un avviso al movimento, più un'intimidazione che un fatto giuridico reale, quindi con cui la Procura di Torino si dichiara pronta anche a scendere in campo con questo tipo di accuse, questo tipo di teoremi. Sembra più appunto un avviso ai naviganti, un avviso al movimento, uno scendere in campo ulteriore della Procura di Torino su questa dimensione qua, che per noi è tutta politica, è una scelta politica quella di costruire l'alta velocità, non è una scelta economica, lo è dal momento in cui capiamo e abbiamo capito in questi anni che si tratta di fatto di un furto di denaro pubblico, e invece qua si parla di appunto, oltre alle scelte politiche del potere istituzionale, sono delle scelte politiche della magistratura, quindi sono situazioni un po' complicate, un po' dannose. Sì, peraltro anche, diciamo, i tempi a cui tu hai fatto riferimento destano più di un dubbio circa la conseguenzialità, insomma, degli avvenimenti, e cioè il fatto che comunque si prepara una operazione anche un po' in grande stile, se vogliamo, per provocare dei fermi e degli arresti. Qualche giorno fa, nel corso di una delle passeggiate, insomma, che si fanno a Chiomonte, poi nell'immediato, nel giro di qualche giorno, accuse roboanti in un certo senso vengono ridimensionate, anche perché poi i compagni vengono in un modo o nell'altro messi ai domiciliari, comunque scarcerati, e eccolo lì che poi arriva questo ulteriore provvedimento con questi capi d'accusa che sembrano quasi un po' dare l'idea anche di un recupero del terreno di questi due PM che si sono messi come due segugi, poveracci loro, insomma, a fare questo tipo di operazioni, no? Sì, è un comportamento assolutamente anomalo, difatti destra non pochi dubbi, è molto strano. Senti, volevo in campo che insomma, intervengono in prima linea, sono cose abbastanza anomale. No, è abbastanza curioso anche il modo in cui la stampa, questo ovviamente non meraviglia, però insomma lo commentiamo uguale, riporta poi noi i fatti in poche righe. Incredibile quanto si riesca a no, concentrare tante stupidaggini, insomma. Tanto per dirne una, sono ovviamente diversi gli elenchi che si fanno circa il materiale sequestrato nel corso di queste perquisizioni. Sul Sole 24 Ore però, insomma, si dice che non è stata trovata nessuna arma, ma solo materiale cartaceo e telefoni. L'Unità invece scrive che sono stati sequestrati razzi, materiale per fabbricare Molotov. E anche da queste piccole nel registrare queste piccole cose, insomma, appare quanto, no, il PD sia realmente la parte più consistente di appoggio a quest'opera, no? Sì, paradossalmente il Sole 24 Ore forse è rimasto l'unico giornale che si attiene un minimo alla, quanto meno, la cronaca dei fatti, ecco. È una cosa abbastanza paradossale, però non lo è se si considera quello che è realmente oggi il sistema che governa il nostro paese, che non è un sistema politico ma è un sistema economico, quindi è chiaro che è l'unico giornale che viene letto dalle, diciamo, persone o dalle situazioni che prendono delle decisioni sul nostro paese è quello, quindi Sole 24 Ore parla ai suoi lettori, che sono di fatto quelli che poi oggi governano il paese, e parla chiaro. Per il popolo, per tutto il resto, per i lettori in genere, viene invece costruita un'opinione deviata, piegata per soddisfare poi gli interessi degli altri. Però questa è così, un'opinione al volo, ma sul tema dell'alta velocità è sempre stato anche abbastanza così, quindi in realtà il piano economico è sempre stato informato bene dell'inutilità di quest'opera. Su Sole 24 Ore sono circolati tantissimi articoli che mettono in discussione quest'opera, questo tipo di investimenti. Che poi questi però siano fatti con denaro pubblico, allora magari al potere economico va bene, e allora per convincere tutti quanti che comunque è un'operazione buona, che l'alta velocità è una cosa che porterà dei benefici per convincere tutti i cittadini, allora tutti gli altri giornali che vengono letti dai cittadini devono piegare invece l'informazione su facendola diventare di parte, molto di parte, per convincere piuttosto che per modificare una percezione di un movimento. Va bene, vabbè, sopravvolo e ti risparmio le pietre lanciate ad altezza d'uomo. Per ciò che riguarda ovviamente il clima lì a Bussoleno, un po' lo hai già accennato, insomma, sappiamo che è un po' il cuore, no, della protesta NoTav, per i giornali ovviamente è la centrale delle versioni, anche internazionale, perché viene scritto anche questo. Insomma, ci ricordavi tu che comunque non ha tutto ciò scalfito minimamente, no, la tenuta di questa popolazione? No, assolutamente. Sì, è salute assolutamente buona. Vabbè, poi qui le persone fortunatamente hanno la possibilità di toccare con mano la realtà anche di quello che poi viene scritto sui quotidiani. La centrale delle versioni internazionale, ad esempio, cronisti come Numa della Stampa di Torino, lui fa riferimento ai dibattiti che vengono fatti qua in valle, vengono presentati documenti, vengono presentate relazioni da altri popoli in lotta, altre persone che come noi si impegnano, che magari sono oggi dei greci piuttosto che dei turchi, piuttosto che francesi o altro. Noi li incontriamo ormai quasi quotidianamente durante l'estate, ci sono un sacco di delegazioni che vengono qui per parlare, discutere, confrontarsi. Ovviamente per i giornali queste sono le centrali del terrore. Quando le persone si parlano, discutono, magari non ragionano con i termini che piacciono appunto a questo tipo di cronisti o a questo tipo di governi, allora certo che rimangono terrorizzati. Io sono d'accordo che sono le centrali del terrore, però è loro, perché hanno assolutamente paura di queste dimensioni qui libere, aperte, in cui le persone si confrontano e non solo non delegano, ma magari anche criticano apertamente, anche duramente, l'operato di un governo, piuttosto che di governi internazionali o magari della comunità europea o di un governo turco, oppure di un asse occidentale che si pone verso, come abbiamo visto, dalla Turchia, le prime aree arabe o l'Egitto, anche di nuovo in modo colonialista, cercando di portare a casa risultati o altro. Questo sicuramente fa terrore a chi invece vorrebbe pace e tranquillità per continuare a accumulare ricchezze e impoverire le persone. Va bene, Francesco, io ti ringrazio e a risentirci a presto. Grazie a te. Ciao. Ciao.